La protesta sociale, la politica, non è più quella di una volta. Specialmente tra i giovani, non è fatta solo di idee, scritti, cortei e bandiere, ma anche di stili di vita, atteggiamenti particolari, percorsi sia individuali che collettivi da sperimentare. Un mondo parallelo si sta muovendo, esiste un'altra musica, un altro modo di concepire le relazioni e l'esistere, un altro modo per viversi le amiche e le donne. I fasci, uno dei problemi del momento. Il mio battesimo del fuoco arriva quasi subito, inaspettato. Mi trovo coinvolto nell'ennesima aggressione ai danni di Cinelli, uno dei leader del nostro collettivo. Vedo le catene roteare e colpire. Vedo il Cinelli coprirsi la testa con le braccia. Vedo tutto ma rimango immobile, senza gridare o dire qualcosa. Oltre la paura, a bloccarmi è stata la sorpresa, la rapidità delle azioni che si sono susseguite in quei pochi attimi. C'è da imparare, da capire al volo chi è il nemico, se non vuoi rimanere fregato. Baby, more than enough. Oh darling, darling, darling, walk wild with me. Festival di Licola. Finalmente una settimana di musica, politica e controcultura a ridosso del mare, nel Canneto, ai limiti della spiaggia. La notizia sta circolando da settimane nelle scuole, nelle piazze. Il primo festival alternativo nel meridione di un certo spessore. La gente arriverà da tutto il paese. Partiamo io, Tommy, Sasà, Dario e lo Smilzo. Le ragazze come al solito sono segregate in casa a fare la calza. Arriviamo in circumflegrea. Ogni corsa scarica centinaia di persone in festa. Uno spettacolo da rivoluzione messicana. Oltre al movimento gruppettaro, c'è tutto l'ambiente freak sudista qui riunito, forse per la prima volta. Si parla di 30.000 presenze. Il costo per entrare è di 400 lire. Un prezzo abbastanza politico, tenendo conto che il festival durerà 3-4 giorni. Il biglietto consiste in un dischetto di plastica azzurro da appendere al collo o dove ti pare, con cui poter uscire e rientrare liberamente dal meeting. Secondo giorno. Le accortezze relative ai biglietti vengono abolite. In pratica si è iniziato a fare avanti e indietro liberamente tra il festival, il mare, la spiaggia e il Canneto. La gente si è sistemata un po' dovunque. Noi cinque siamo accampati in pineta, a 100 metri dal palco centrale. Dormiamo, mangiamo insieme, ma in pratica ognuno è con le proprie storie. Sasà e Dario negli stand e nei dibattiti ad interessarsi della politica seria. Tommy ed io in giro tra le tende a fare conoscenze, a vivere la gente. Unico grosso problema, l'acqua potabile. C'è una sola fontana, la fila è interminabile. Dal palco centrale fervono i soliti interventi dei militanti e dei leader gruppettari. In giro, sulla spiaggia, tra i fuochi, pulsioni, sperimentazioni, rapporti diretti. Le compagne, poi, sono uno splendore. L'area di libertà e di autonomia che le circonda le rende tutte belle. Le piazze. Da un po' di tempo sono ovunque. Si sono moltiplicate. A quelle più antiche, Piazza Dante e Piazza Medaglie d'Oro, sulla scena della fine dei 60 si vanno ad aggiungere le nuove, create per lo più dalla seconda generazione di capelloni, noi, i fratelli minori. Un panorama approssimativo. Oltre la nostra e le due sopracitate, vede Piazza San Nazaro, Piazza Carlo III, Piazza del Gesù, Ringhiera Capodimonte, Giardini Cavalleggeri, Giardini Mostra l'Oltremare, Bagnoli, Ponticelli, Rione Luzzati, Giardini Posillipo e poi Portici, Pozzuoli, Torre, eccetera. I giovani si riuniscono dove possono e il bisogno di aggregarsi per creare culture ed esperienze altre è sempre più sentito. Le piazze. Una varietà di stili e di espressioni diverse che si incontrano. Le categorie riscontrate sono principalmente tre. Quelle politiche, quelle sex, drugs e rock and roll, quelle miste. Si spazia da quelle del centro, molto frequentate e supportate da bar, portici, eccetera, a quelle rioniali, di periferia e di piccoli paesi di provincia. Tanti piccoli luoghi liberati da codici, regole imposte e da certe usanze in voga tra gente da bar o da parrocchia. L'azione diretta regola le relazioni e le discordie. Nessuno è superiore a nessuno. Nessuno ha una polizia o degli avvocati a sua difesa o protezione. Tu vali per quello che sei e non per quello che dici di essere. Se sei figlio di Tizio o di Caio, in piazza non conta un cazzo. Piazza del Plebiscito. La nostra, al momento, è tra quelle più spaziose e frequentate. La linea di massima ricalca le atmosfere dei meeting alternativi. Con il sole poi è il massimo. gente numerosa e variopinta sulle scale, chitarre, bongos, allegria, ottimismo, atteggiamenti liberi e propositivi, discussioni colte e meno colte, mandala, viaggi, Bosch, psilocibina, esperanto, la vita in comune, percorsi d'autostop, la compagna, il compagno, i genitori, la scuola, l'esistenza sperata, il militare, Elia già lo vive. Ci alleniamo alla vita, alla comunicazione, alla conoscenza di noi stessi attraverso il confronto con gli altri. Si creano coppie, gruppi di amici, relazioni. La gente si sceglie in piena libertà, senza farsi condizionare da dislivelli culturali o da appartenenze a ceti diversi. Attrazione fisica, affinità caratteriali, spirituali, simpatia, amore, intenti. E poi sembra essere un'ottima palestra per i caratteri più timidi, impacciati, cocchi di mamma e così via. Avere una piazza nei paraggi, sia in città che in viaggio, è come avere un'oasi a portata di mano. In caso di bisogno, c'è sempre qualcuno disposto a darti una mano. 79. Per farsi, bisogna attrezzarsi sempre di più. Inizio a vendere la roba. Per reperirla non c'è nessun problema, gli amici la danno a buffo o a cavallo di ritorno. In pratica vendo la roba per potermi pagare la mia. La solita storia. Con Dino l'intesa è sempre maggiore. Ora abbiamo anche un motorino di quelli nuovi con le marce, velocissimo e molto pratico per la città. Si batte il centro a caccia di affari. Con un minimo di conoscenze puoi scegliere la qualità, valutare il prezzo, contrattare. Dai quartieri spagnoli all'Icola, da Forcella a Pozzuoli, è tutto un fiume di roba. La sostanza in giro è talmente tanta che in alcune circostanze ci concediamo perfino il lusso di non pagare le somme dovute per intero. Non hai soldi? Eccoti altri 10-20 grammi, vendi il tutto e recupera quello che devi. La storia si sa, in genere non va così. Chi si fa solitamente non recupera un cazzo. Eppure la roba gira. Un potere maggiore deve volere tutto questo. Qualcuno avrà deciso che la roba, soldi o non soldi, deve sfondare dappertutto. Dovunque ci siano giovani, capelloni, chitarre, intenti, sogni. Al suo passaggio niente deve rimanere vivo, attivo. I volti di una volta sono completamente mutati. Da gioiosi, allegri, beati, si sono incupiti, accigliati, immerdati. Ciao Tony, è da qualche mese che mi vedo spesso con Tonina Persega. Ha preso casa giusto 200 metri più su della mia. Fortunatamente anche lui, a botta di astinenze, comunità andate perse e patimenti, è riuscito a uscire dal tunnel della roba. Il passato a volte è appena dietro l'angolo. A parte i ricordi che vanno e vengono, gli amici ancora persi non sono pochi. L'ultimo ad andare via è stato Felice, della zona del porto. Giusto un paio di giorni prima che uscisse la prima edizione di questo test. 35 anni di eroina, strada, solitudine e disperazione. E poi Leno, Gasparone, Scoppetta. La maledizione sembra non avere fine. Tony, hai saputo dell'ultima novità venuta fuori dallo specchio magico? La valanga di polvere bianca che ci travolse in quegli anni ha un nome, Operazione Blue Moon. La notizia ufficiale. Rai Storia ha dedicato alla vicenda l'intera puntata del 2013, il 25 giugno. La scena madre si svolge in Francia, sui Monti Vosges, nell'autunno del 72. La riunione super segreta è descritta da un ex agente dei servizi interni della difesa. Virgolettato. Prendono parte agenti americani, italiani, portoghesi, francesi e perfino del blocco sovietico. L'argomento è le opposizioni. Cosa fare per prevenirle, per conoscerle a fondo? Come limitare i danni che potrebbero arrecare agli equilibri statuali del momento? Come regolamentarle e disciplinarle attraverso l'introduzione regolata, non per legge, ma da accordi di intelligence di sostanze stupefacenti? Sostanze da destinare ai giovani per diminuire la capacità di resistenza psicologica nei confronti di chi deteneva la gestione del paese. Bisogna togliere l'idea che i servizi segreti siano fondati su uno spirito cavalleresco. I servizi sono fondati sul nemico che il principio va eliminato. La domanda che ci siamo posti è questa: in che misura, con quali mezzi e a chi avrebbe poi dato concreta realizzazione ad un piano di tal diffusione? Sicuramente chi distribuiva doveva avere un ritorno economico ed essere assolutamente inconsapevole del perché della distribuzione, un'ipotesi già collaudata da tempo. Un'ipotesi fatta di ostracismo verso chi fuma erba, ma di protezione per chi dispensa droghe pesanti all'ingrosso tra i movimenti giovanili. Un'ipotesi che vede in Italia il numero dei tossici schedati aumentare da 10.000 nel 76 a 270.000 nell'80-81. Un'ipotesi che vede poliziotti perire in strani incidenti stradali mentre svolgono indagini su trafficanti internazionali legati a servizi segreti stranieri, o che vengono destituiti dalla sera alla mattina solo per aver fatto dei grossi sequestri di eroina. Un'ipotesi che porta a 1.000 morti all'anno tra overdose, suicidi e malattie legate all'uso delle sostanze. Subito dopo all'ospedale delle sostanze, che vide scoppiare nell'80 a Napoli tumulti tra tossici e personale medico all'ospedale Cardarelli e subito dopo all'ospedale Cotugno. Ospedale diventato nel giro di qualche mese un lazzaretto per tossici e malati di epatite. Il quarto piano è l'inferno. Le condizioni in cui vengono trattati non sono delle migliori. In alcuni casi, pur di farsi sentire, i ricoverati arrivano ad incendiare materassi e suppellettili. In risposta, nel giro di qualche giorno compaiono porte sbarrate e presidi di guardie giurate agli ingressi dei reparti. Un'ipotesi che vede comparire verso la fine degli anni Ottanta, sempre a Napoli, nel fossato del Maschio Angioino, dove di mattina vive il mercato dei fiori, il nostro zoo di Berlino. Notte inoltrata, giovani tossici offrono prestazioni sessuali ad anziani signori. Ci si apparta sul posto, nell'auto del cliente, dietro un angolo dei bastioni o dietro qualche baracca che funge da negozio di fiori la mattina. Si scopre l'acqua calda, che la roba non fosse arrivata per opera dello Spirito Santo si sapeva. Il movimento lo sapeva.